Noi a novembre abbiamo letto le carte e la documentazione che ci ha fornito l'amministrazione con una serie di richieste di insediamenti di distributori di carburanti nel nostro territorio che ci sarebbero stati sostanzialmente in tre quartieri: Borgoreno, Navile e San Donato San Vitale. Si trattavano di 11 distributori, di cui 7 soltanto nel quartiere San Donato San Vitale, insieme anche a alcuni tecnici, soggetti, comitati che poi sono nati spontaneamente, abbiamo manifestato le ragioni per le quali ci sembrava evidente che questi impianti di distribuzione fossero superflui e anche dannosi per il nostro territorio. Per questo, quando si è trattato di votare i pareri nei quartieri, abbiamo detto durante il dibattito la nostra contrarietà, lasciando che la maggioranza PD se li votasse da soli. E nel frattempo abbiamo seguito l'iter che è passato anche dal Consiglio Comunale fino a appurare a gennaio, che anche negli ultimi mesi, che in realtà anche gli uffici tecnici del Comune, vista la situazione, hanno detto che quella delibera con la quale si voleva andare avanti col POC doveva essere ritirata. 7 impianti solo nel quartiere San Donato San Vitale, di cui 4 sulla strada per Fico. 4 sulla strada per Fico, e questo era, come dire, l'aspetto che abbiamo messo più in evidenza, nel senso che ovviamente lì si tratta di mercato, un mercato anche abbastanza libero, visto che è stato un mercato anche liberalizzato. Di fatto sono soggetti privati che possono fare le richiesta per insediarsi ovunque. Poi il pubblico, tramite i propri uffici, valuta se questa richiesta si può portare avanti o no. Guarda caso, ma alla fine non è neanche un caso, tutti quanti verso Fico, evidentemente, perché se hai prospettato che vuoi portare 6 milioni di persone l'anno in un posto dove con i mezzi pubblici ci arrivi con difficoltà e quindi molte persone dovranno scegliere il mezzo privato, questa cosa diventa allettante per chi deve distribuire carburante. In più, questa discussione l'abbiamo fatta quando ancora non ci eravamo resi conto che a Fico in realtà ci fa molto meno gente delle persone che piacerebbe portare a Farinetti con gli autobus vuoti, e questa cosa rende ancora più grave la situazione che ci stava per verificare. A fine gennaio scorso però il Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune ha chiesto il ritiro di questa delibera, proprio perché i quartieri si sono espressi contro molti di questi impianti, e però voi ora chiedete anche il ritiro del POC. Sì, certo, i quartieri si sono espressi contro, nel senso che nessun quartiere ha accettato che venissero approvate tutte le richieste. A Borgoreno e al Navile era 1 su 2, e invece nel mio quartiere San Donato San Vitale erano soltanto 2 su 7, adducendo anche delle motivazioni piuttosto importanti alle quali comunque abbiamo contribuito anche con le nostre argomentazioni. La cosa evidente è che è stata evidente anche ai tecnici che l'hanno detto, fa specie che il Comune non abbia dato notizia di questa cosa, nel senso che evidentemente per l'assessore rimangono le parole che sono dette quando fu approvata la delibera in Consiglio Comunale, cioè di andare avanti. Fa specie che non ci si renda conto che le condizioni siano assolutamente cambiate. Abbiamo voluto citare anche dei dati internazionali per far capire la situazione, nel senso che se ad esempio della Germania, dove hanno 82 milioni di persone, di abitanti, hanno circa 14.000 impianti, da noi ce ne sono 21 e siamo molti meno, quindi è evidente che ci sta un'enormità di una sproporzione tra i numeri. In più abbiamo fatto fatica anche a trovare i numeri degli impianti esistenti e funzionanti per Bologna. Una situazione di questo tipo, dove ti mancano le misure e i termini della questione per capire di che cosa stiamo parlando, è una cosa che deve essere rivista dal profondo. Sicuramente questo POC non può andare avanti così, e per questo oggi esultiamo che sia stato ritirato. La questione, diciamo, più politica riguarda anche le scelte, no? Che portano a queste delibere. Se si dice spesso che l'obiettivo è ridurre il traffico veicolare privato, costruendo distributori, insomma, non si incentiva. Esattamente, infatti abbiamo voluto mettere in evidenza anche questa cosa. Adesso ci sta questo dibattito su PUMS, sul piano urbano della mobilità sostenibile. È un piano, è una discussione anche abbastanza complicata. Vedo l'assessore Piolo che molto in difficoltà, una volta è in via Frassinago sulla ciclabile multe ai ciclisti e un'altra volta sulla questione dei tassisti e dei taxi che non si trovano. La verità è che manca un piano siamo in questa città da molto tempo. Si fanno anche delle previsioni, anche giuste, perché se si dice che si debbono ridurre il traffico veicolare privato, è una previsione che va nella direzione giusta. Lo fanno altre importanti città europee, equivalente a Bologna, finalmente riusciamo a farlo anche a Bologna. Fa specie che però, mentre si dice questa cosa, si vogliono mettere degli altri impianti di carburanti, che evidentemente fanno quando si sta una previsione di aumentare il traffico veicolare privato. E questa è una delle tante contraddizioni che ci sono anche nell'amministrazione quando parla di temi di mobilità.